Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Sargante Ferry Boat, buongiorno. Parliamo di mobilità, si è appena conclusa la settimana della mobilità sostenibile in Europa e vogliamo ricordarla con una curiosità e un progetto. La curiosità è un'applicazione che si chiama Lizza, arriva da un'azienda di Genova, la Miranda, e sostanzialmente mette in contatto gli autotrasportatori che vogliono viaggiare sempre a pieno carico e le aziende che vogliono far arrivare rapidamente, magari a basso costo, la loro merce a destinazione. È decisamente un'idea originale e innovativa perché punta al risparmio energetico, a ridurre anche al minimo l'impatto ambientale, perché riempiendo i camion ovviamente si possono anche dimezzare il numero dei trasferimenti. Rimaniamo nel campo della mobilità sostenibile, questa volta chiamiamola così familiare. Il professor Alberto Colorni, presidente del Consorzio Poliedra del Politecnico di Milano, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Alberto Colorni si occupa da tanti anni di mobilità sostenibile con molte sperimentazioni. Questo è il Consorzio Poliedra, corretto? Sì, è corretto, è un consorzio del Politecnico di Milano che si occupa di mobilità, ambiente e anche tematiche legate ai processi decisionali. In questo momento stiamo ragionando su un progetto in Lombardia che si chiama Green Move, legato al vehicle sharing elettrico in generale, e poi con una specifica che, se vuole, le descrivo. Cioè, quindi vehicle electric vuol dire mezzi elettrici condivisi. In particolare ci piaceva sottolineare, fra i tanti progetti, avremo occasione di parlarne ancora, quello dedicato ai condomini, quello che voi avete chiamato condo sharing. Esattamente, sì. Si tratta? Dunque, adesso il nome non è bellissimo, ma insomma fa riferimento a una realtà del condominio, perché noi partiamo da quest'idea. Una delle tante possibili declinazioni del termine sostenibilità è quella che dice che si possono anche analizzare dei segmenti particolari di utenza a cui offrire delle condizioni particolari e degli servizi oltre che un mezzo di trasporto. Allora, l'idea del condo sharing è quella di avere in una realtà legata all'abitazione, quindi un condominio sufficientemente grosso, una o più macchine, diciamo, a disposizione del condominio, quindi condivise con l'idea appunto del vehicle sharing, in particolare elettriche, e quindi con alcuni elementi anche legati, diciamo, all'aspetto ambientale, ovviamente, certo. Aspetto ambientale, e con quindi un sistema che consente a differenti tipi di esigenze legate però alla vita familiare, quindi la mamma che deve portare magari il bambino la mattina e che potrebbe avere bisogno della macchina, ma con il seggiolino per portare il bambino, il signore che d'inverno vuole andare a sciare e quindi magari si mette il portasci, la persona anziana che ha bisogno di un aiuto nella prenotazione, certo, esame medico, eccetera, eccetera. Questo unito al mezzo in sé. Un'ultima domanda, pochi secondi, professore: c'è già in atto una sperimentazione in questo senso? E se sì, dove? Noi siamo per partire, diciamo, adesso spero che sia proprio così, a ottobre, se non è ottobre, novembre, in un grosso condominio di Milano in cui vogliamo fare questa sperimentazione che durerà almeno 6 mesi. E poi chiuderemo il progetto in estate. Bene, e allora noi torneremo a parlarne per capire come è andata. Grazie professore, buon lavoro. Arrivederci. Chiudiamo con una notizia che, diciamo così, di casa nostra, proprio nella sede del Sole 24 Ore a Milano, martedì, un incontro dedicato al valore e ai valori di una partnership sociale. L'evento è organizzato dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, con noi Antonella Moretti. Buongiorno. Ecco, esattamente di che cosa parlerete, valore e valori di una partnership sociale, brevemente? Molto brevemente, noi vorremmo presentare una nuova metodologia di valutazione dei progetti che noi abbiamo portato avanti, abbiamo potuto sviluppare grazie anche alla collaborazione di partner importanti, una valutazione che è ispirata a quello che viene chiamato ROI, cioè ritorno sociale sull'investimento, che consente quindi proprio di andare a valutare qual è l'impatto sociale del progetto che noi abbiamo potuto realizzare, nel nostro caso a favore delle persone con sclerosi multipla, sia come assistenza sia come ricerca, valutandone quindi non soltanto l'efficienza ma anche in termini di efficacia. E per fare questo abbiamo voluto prendere due case history che per noi sono molto importanti, perché sono legate a partnership con aziende che ci seguono da tanto, uno con Cariparma Credit Agricole e l'altro con Oro Saida. Benissimo, grazie, è stata velocissima e bravissima a sintetizzare. Ci sentiremo ancora perché torneremo a parlare, in effetti è un aspetto importante del no profit. Buon lavoro ad Antonella. Grazie. Moretti. Chiudiamo ricordandovi di cliccare su mi piace in Ferry Boat Radio 24 su Facebook. Grazie ad Anita Panizza e Franco Piantanide in redazione, a Roberto Scaltritti in regia. A risentirci.